L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera e ben ritrovati per una nuova puntata. Anche quest'anno a Bruxelles la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea ha organizzato la Green Week, la settimana verde, quindi una settimana dedicata all'approfondimento di un tema, quello del 2013 è stata l'aria, che viene affrontato da esperti e policy makers, quindi legislatori, e dedicato a un pubblico di esperti, appunto, legislatori, ma anche cittadini, giornalisti, studenti, che sono tutti invitati a partecipare al forum. Il tema aria era, per così dire, quest'anno quasi obbligato, visto che si sta lavorando alla nuova normativa in materia, la nuova direttiva europea. Oltre alle sessioni di lavoro, che sono davvero serratissime, alla Green Week ogni anno sono presenti dei punti informativi delle agenzie europee o dei programmi europei per la sostenibilità e l'ambiente, e anche di associazioni e aziende il cui lavoro sia in tema con quello della manifestazione. E quest'anno non mancavano gli espositori italiani. C'era il Ministero dell'Ambiente, che ha organizzato un incontro sull'inquinamento dell'aria e la salute dei bambini, in particolare nelle scuole. C'erano aziende, c'erano due progetti nati dalle università di Urbino e Napoli, di cui parleremo oggi. Diversi per ambiti e obiettivi, ma entrambi interessanti. Cominciamo dal progetto Sefira di Urbino. Io sono Giovanni Torrisi, sono un sociologo del diritto. Mi occupo di andare a vedere come le norme sono efficaci. E perché sono efficaci? Che non è un proposito da poco, direi, di questi tempi, e poi in un settore così. Comunque, cerchiamo di chiarire agli ascoltatori, appunto, perché anche voi siete alla Green Week come Università di Urbino con questo progetto. Il progetto si chiama Sefira ed è un progetto che riguarda le implicazioni, le risposte socio-economiche di individui in relazione alle politiche di qualità dell'aria e di inquinamento acustico. Quindi noi siamo interessati a vedere come le politiche funzionano. In realtà già sappiamo che non funzionano benissimo, perché 20 dei 27 stati dell'Unione Europea sono sotto infringement procedure, quindi sotto procedura di infrazione per non rispettare i limiti inerenti alla qualità dell'aria. Noi stiamo cercando di capire perché non funzionano attraverso il nostro progetto Sefira. Il progetto Sefira è un progetto finanziato dall'Unione Europea, dal settimo programma quadro di DG Innovazione e Ricerca di Innovazione. È l'unico progetto che mette insieme varie expertise di vari ambiti, di ambiti che normalmente non stanno insieme in realtà. Quindi abbiamo a lavorare insieme sociologi, antropologi, economisti, geografi sociali e scienziati dell'atmosfera. Siamo l'unico progetto che in questo settore ha questo approccio transdisciplinare, proprio perché quando si guarda all'efficacia delle politiche non è possibile limitarsi ad una sola disciplina, a un solo approccio, ma è necessario, indispensabile prendere più approcci. È un progetto che include diversi partner a livello europeo. In Italia, a parte l'Università di Urbino che coordina tutto il progetto, abbiamo anche il CNR e Pragma, che è un centro di ricerca che si occupa di indagini di mercato, anche socio-politico-economico, per grossi numeri di persone. A che punto siete di questo progetto in questo momento in cui ci incontriamo? Abbiamo appena iniziato, il progetto è partito ufficialmente il primo di giugno, quindi qualche giorno fa, e siamo già all'opera. Comprendere l'opinione delle persone rispetto alle politiche è un lavoro molto complesso, quindi abbiamo deciso di iniziare qui alla Green Week facendo una parte iniziale di progetto pilota, facendo delle interviste anche abbastanza in profondità a esperti e policy makers, quindi esperti del settore e policy makers, che erano tutti qui raggruppati alla Green Week, che è un evento particolarmente importante a livello europeo sulle tematiche della qualità dell'aria e del rumore. Noi ci occupiamo anche del rumore sia come proxy della qualità dell'aria, ma anche come elemento di disturbo ambientale in se stesso. Contemporaneamente abbiamo deciso di fare un questionario per tutte le persone che partecipavano alla Green Week. Prenderemo delle idee e delle opinioni da questo primo progetto pilota e poi faremo delle interviste e dei questionari a decine di migliaia di persone in Europa. Detto questo, quando riuscirete a poi a trarre le fila di tutte queste migliaia di interviste, l'idea quindi è di capire perché non funzionano e quindi proporre, immagino, anche delle vie per risolvere i problemi. Assolutamente sì. L'idea, che è quella della commissione in questo caso, è quella di cercare di costruire dei team di policy making, quindi interdisciplinari e transdisciplinari, che guardino alle normative inerenti alla qualità dell'aria, in questo caso non soltanto alla prospettiva dei limiti che tecnicamente sono corretti, ma anche con un approccio che possa consentire un'efficacia maggiore delle politiche. Quindi, per esempio, fa parte di questo l'orizzonte della comunicazione, informare la popolazione delle possibilità, delle opportunità, dei rischi a cui si va incontro quando non si seguono delle politiche, informarle anche delle politiche stesse, del senso che queste politiche hanno, quindi un'educazione alla cittadinanza ambientale in qualche modo, cosa che nei paesi europei per molta parte manca. Faccio un esempio proprio terra terra. Molti in Italia, ma non soltanto in Italia, bruciano le biomasse nel proprio campo perché credono che questa sia una pratica normale e utile addirittura all'ambiente. Invece, tecnicamente, anche bruciando delle biomasse senza presenti di vernici o di additivi, si provoca un inserimento nell'atmosfera di importantissime quantità di, a parte di CO2 naturalmente, anche di quello che si chiama black carbon, che è un inquinante particolarmente pericoloso per l'ambiente. Anche perché non c'è nessun tipo di filtro, cioè se si brucia qualcosa nel proprio campo non c'è nessun tipo di filtro. Bisognerebbe appunto informare la popolazione dei rischi a cui si va incontro con questo tipo di gesti, e nell'insieme dei piccoli gesti individuali si costruisce un ambiente più sano e più responsabile. E a proposito di interviste a esperti e policy makers, Torrisi e il suo staff non si sono fatti sfuggire l'occasione di intervistare il commissario all'ambiente Janez Patočnik in visita agli espositori. Lui ha preso il questionario, l'ha compilato, età, stato civile, studi, ma aveva il tempo di rispondere a una sola domanda, e la domanda che gli è stata posta è molto semplicemente: quali sono le priorità secondo lui? La priorità è una ed è semplice: la revisione dell'attuale policy sull'aria. Ci sono ancora molte lacune, quindi prima di tutto dovremo lavorare sull'applicazione della normativa esistente. Secondo, in base ai nuovi dati e alle nuove evidenze scientifiche, dobbiamo elaborare una strategia di medio e lungo termine che punti all'impatto zero sulla salute. Terzo, proporre misure attraverso cui tutti sappiano come approcciare questa materia. Infine, trasformare in opportunità economica ciò che molti al contrario considerano un problema economico. Se tra 3 anni avremo i risultati, diciamo, conclusivi del progetto Sefira, ecco, 3 anni di vita li ha già compiuti il progetto San Eagle, di cui è capofila la seconda università di Napoli. Alessandro Coppola ne è il project manager. San Eagle è un acronimo, sta per Seconda Università di Napoli, e poi la seconda parte del nome è Endorsement Action for Governance of Local Environment, e lo scopo principale del progetto è proporre e promuovere a livello locale politiche sull'ambiente che perseguiamo attraverso più azioni multiregionali legate all'audit energetico, alla gestione forestale, alla partecipazione al Covenant of Measures e all'incremento del Green Public Procurement. Quest'anno qui si parla in particolare di aria. Come si, diciamo, qual è l'unione tra il vostro lavoro e appunto la qualità dell'aria? Allora, parlare di gestione forestale, della risorsa boschiva in generale, significa innanzitutto monitorare, calcolare qual è il consumo di risorse naturali che l'impatto e le attività dell'uomo hanno sul territorio. Il nostro progetto persegue l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbone. Da questo punto di vista noi abbiamo, diciamo, un sistema che coinvolge anche il comportamento dei singoli e dei gruppi collettivi, perché cerchiamo con una piattaforma che si chiama CO2 Calc di calcolare, diciamo, l'impronta ecologica, cioè il consumo di risorse che ciascuno di noi fa nel svolgimento delle proprie attività nel giornaliere, dal consumare un pasto allo spostarsi in città, a organizzare un viaggio, una vacanza, piuttosto che una cena con gli amici. Fa un esempio di progetto appunto che è stato varato, portato avanti. Ma guardi, una delle azioni, la prima che mi viene in mente, ma ce ne sono diverse perché il progetto è molto articolato, trattandosi di attività diverse che riguardano le funzioni essenziali degli enti locali e dei comuni in particolare. Abbiamo proposto delle azioni di monitoring dei consumi negli edifici pubblici degli enti. Abbiamo sostanzialmente attivato sia in Italia che a Malta e anche in Grecia un monitoraggio sui consumi energetici. Da questo monitoraggio è scaturito anche un piano e delle regole di comportamento per la riduzione dei consumi e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse. Ad oggi diciamo abbiamo complessivamente oltre 30 enti locali che hanno a disposizione uno strumento per migliorare la loro performance energetica. Ci salutiamo qui per altri approfondimenti sulla Green Week e in particolare sull'inquinamento dell'aria dovuto all'agricoltura. Vi rimando ai nostri reportage, li trovate tutti sulla pagina internet di Radio 24. Il programma si intitola per l'appunto Reportage. Appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora.